e il settimo si riposò. Il riposo del guerriero, il rotocalco di Radio 24 che fa riposare il corpo, non la mente, e che ti permette di viaggiare a Malaga per conoscere i luoghi e l'arte di Picasso. Ecco l'indizio di questa settimana. Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 10, con Stefano Gallarini. Su Radio 24.